Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare. Benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre, qui in studio Stefano e Margherita. Oggi parleremo di un quartiere particolare di Napoli, ovvero il quartiere di Scampia. E io cercherò di farne un breve ritratto. Scampia è un quartiere che si trova alla periferia nord di Napoli. Nel 1962 fu varata la legge 167 per la riqualificazione del territorio urbano, il cui scopo era quello di realizzare un nuovo modo di concepire la periferia. Si inizia così a costruire e quella che era una vasta campagna piena di alberi diventa l'area 167. Dopo il terremoto dell'80, numerose abitazioni sono state occupate abusivamente, trasformando Scampia in un quartiere dormitorio, senza piazze, né negozi, né chiese, né scuole. Negli anni le cose sono cambiate, ma lo spazio pubblico conquistato poco a poco, col tempo, ha finito per rimanere inghiottito dai soliti interessi economici e dalle mire della camorra. La circoscrizione Scampia nasce quindi nel 1987, ha una forma quadrangolare con al centro le vele, costruzione nata da un'utopia, poi diventate simbolo del degrado urbanistico, sociale e civile del quartiere. Casermoni ghetto, che sono come prigioni di cemento in cui non batte mai il sole. Il quartiere oggi è abitato da circa 40.000 persone secondo l'anagrafe e altre 20.000 che per lo Stato non esistono. Ha una densità di popolazione altissima, per la maggior parte giovani, un tasso di disoccupazione del 70%. Qui i bambini diventano grandi in fretta e quelli che grandi lo sono già, troppo spesso sono costretti a scegliere tra lasciare il loro quartiere o adeguarsi al sistema. Qui chi vive nei lotti sa che ci sono delle regole da rispettare quando ci sono le baruffe tra i clan, non ritirarsi tardi per non incappare in uno scontro a fuoco, ma stare in auto a parlare per non finire ammazzati perché scambiati come guardaspalle di un boss. Non bazzicare per strada per non essere scambiati per uno spacciatore. Non girare in moto con il casco integrale per non far pensare di avere qualcosa da nascondere. Un contesto in cui si può morire tutti i giorni, come se fosse normale. Ma invece non c'è nulla di normale in tutto questo e anzi, la normalità è l'esigenza più sentita. Di Scampia si è detto tanto, è vero, e ancora se ne dice. Di solito ne parla chi non l'ha neanche mai vista, chi non la conosce, se non dai titoloni dei giornali. È facile fare una passerella elettorale, occasione di buonismo e consigli non richiesti, ma chi vive qui ha imparato a diffidare di quei volti sconosciuti che vengono da fuori per salvare il loro quartiere e delle loro promesse effimere, che cadono appena cala il sipario. Ma al di là di tutte le definizioni che la descrivono come la più grande piazza di spaccio a cielo aperto d'Europa, di chi parla solo dei record di delinquenza, assentismo scolastico, numero di latitanti, della solita guerra del sud, fatta di faide e camorra, Scampia non è un territorio inespugnabile di narcotraffico e di clan mafiosi, ma un luogo complesso, giudicando il quale non si può peccare di superficialità. È un luogo difficile anche perché c'è chi pensa che nascere qui significa avere il destino segnato, essere nati già con il germe mafioso. C'è invece una Scampia inedita, meno notiziabile ma più vera, fatta di gente per ben, che resiste giorno per giorno, nonostante tutto. E nonostante tutto che qui può essere gigantesco. Sopravvivere nella legalità, aspirare alla normalità, qui diventa un atto di coraggio. Scampia è anche l'area urbana più densa di associazionismo in Italia. Da tempo sul territorio c'è un laboratorio di associazioni che lavorano nel quotidiano, vogliono raccontare il quartiere a modo loro. E non solo subire la narrazione di chi pensa di saperne di più di chi ci vive. I Mammut, i Gridas, Vodiscà, Arrevoto, Punta Corsara. Scampia e la sua gente hanno una grande capacità di accoglierti se lasci a casa i pregiudizi, se non credi avere già le risposte, se non mostri la pretesa di salvare qualcuno. Casomai sono loro a salvare te, con la bellezza delle loro storie. La guerra quotidiana con cui si trovano a convivere ha creato una capacità di resistenza incredibile in queste persone e presto potranno smettere di resistere e pensare ad esistere e a sognare di nuovo. Adesso continuiamo con della musica che di un gruppo che ha lo stesso nome della legge che ha dato il nome a quell'area, a 67. L'ho detto bene? Diciamo Stefano non l'hai detto proprio bene, però dai, ci accontentiamo. Vabbè dai, il mio romagnolismo posso lasciarlo da parte e comunque continuiamo con questa canzone che si chiama Chi me sape. Questo l'hai detto bene. Grazie. Saba, fa un saba, raga, parte da sta un saba, prima guarda. abbiamo sentito gli A67 con Chi me sape. Ciao, io sono Sara e nella puntata di oggi parleremo della parte di Scampia, che come ci ha raccontato prima Margherita, che resiste nonostante tutto, della parte ancorata alla legalità. Vi raccontiamo quindi la storia di Rosario Esposito La Rossa. E chi è? E Rosario è un ragazzo che abbiamo incontrato al raduno di Libra quest'estate a Borgo Sabotino. Rosario è giovanissimo, ha 24 anni e ha pubblicato il suo primo libro, ancora più giovane, a 18 anni. Il libro si chiama Al di là della neve, da una raccolta di racconti su Scampia. Racconti con uno sguardo critico, uno sguardo che parte appunto dall'interno. Il libro ha avuto un grandissimo successo, ha vinto il premio Fabrizio Romano nel 2007 e il premio Giancarlo Siani nel 2008. Va bene, ha scritto a 14 anni, ha vinto dei gran premi letterali. E poi cosa ha fatto? Ha scritto un libro con Libera e magari i fondi sono andati alla ricostruzione di un bene confiscato. Sì, Stefano, lo sai. Come? Ti sei Come preparato? Possibile? Ti sei preparato tutta la gag. Esatto, è stato proprio così. Rosario ha fatto un sacco di progetti, ha collaborato con recitando in un teatro civile, ha scritto altri libri, tra i quali uno appunto proprio quello con la collaborazione di Libera, dove c'è una prefazione di Don Ciotti, Libera Voce si chiama. E la cosa che mi preme di più dire su Rosario, prima di sentire l'intervista che tra poco partirà e che Stefano ha dovuto sudare per faticosissima, tecnicamente difficile, però siamo riusciti a intervistarlo. E appunto raccontare Rosario attraverso i nostri occhi, i ragazzi che c'erano al raduno, e attraverso gli occhi anche di Nando Dalla Chiesa, che ha scritto un articolo bellissimo su Rosario pubblicato sul Fatto Quotidiano. Rosario è davanti a noi, davanti a più di 300 ragazzi, e ci ha chiesto quest'estate se qualcuno si ricordava di quando lui aveva scommesso sulla capacità di un libro di diventare una casa editrice. Ebbene, la casa editrice c'è e si chiama Caffè Romarotta. Sì, e poi che cosa ha fatto? Ha fatto pure una biblioteca all'interno di Scampia, magari. Sì, Stefano, so che sei invidioso, ma... No, non sono invidioso, però è veramente incredibile sto personaggio. È un ragazzo incredibile. Con l'aiuto del comune di Napoli, Rosario sta facendo tra le strade degradate della città una delle più grandi biblioteche. E dove appunto vengono raccolti libri gratis, insomma una ricchezza inspiegabile. Rosario ci parla soprattutto nell'incontro a Borgo Sabotino dei suoi ragazzi, perché Rosario, Stefano, ascolta bene, è anche un allenatore. È un allenatore dei Pulcini dell'Arci di Scampia, una squadra che era partita insomma con una decina di persone, dove ora c'è una partecipazione insomma immensa, più di 300 ragazzi. Ma cosa c'entra la squadra di calcio con la lotta alla mafia? Questo mi lascia assolutamente dubbioso, perché non esatto, vede il nesso. Ecco, questa è una bellissima domanda, perché il gioco collettivo, l'impegno comune, le regole e il rispetto sono la base per la lotta alla mafia, perché la lotta alla mafia non è fatta solo da eroi, da grandi magistrati, ma la lotta alla mafia è nella nostra quotidianità. Nella squadra di calcio infatti ci sono bambini figli di camorristi e bambini figli di vittime di mafia che giocano tutti insieme, e Rosario ci dice chiaramente, e questo almeno è la parte che mi è rimasta più impressa, che bisogna smettere di parlare dell'esercito del bene e dell'esercito del male, perché c'è una realtà immensa che ci sfugge e che può stare di qua o di là, a seconda proprio di quello che facciamo noi. Questo è un grandissimo esempio. Beh, a questo punto direi di far partire l'intervista. Quindi... Sì, sentiamo l'intervista a Rosario. Allora, ciao Rosario, com'è iniziato a lavorare a Scampia? Qual è stata la scintilla che ha fatto iniziare il tuo lavoro? Il nostro lavoro qua a Scampia nasce purtroppo da un fatto luttuoso, dalla morte di mio cugino Antonio Langhieri, che è stata una delle vittime innocenti della parità di Scampia, la famigerata guerra a Baclan, inizio la morte di 60 persone di numerosi innocenti, tra cui Antonio. La nostra battaglia inizia proprio dalla morte di Antonio, per ridare dignità e memoria a questo ragazzo di 25 anni. Da lì, dopo la morte, ci siamo venuti formando un'associazione che si chiama BODISCA, che è l'acronimo di Voci di Scampia, un'associazione che opera sul territorio appunto per ridare dignità e memoria di Antonio, ma soprattutto per un riscatto sociale e culturale del nostro territorio. Ho capito. E un'altra cosa, che strumenti pensi manchino agli abitanti di Scampia? Io credo soprattutto strumenti lavorativi. Oggi da tempo ormai, sia oggi che da tempo, si lavora soprattutto sul concetto di eventi, di evento, di calare dall'alto progetti a breve termine che lasciano poco spazio alle tracce sul territorio, cioè non hanno nessuna ricadenza, sia dal punto di vista delle istituzioni che continuano a proporre questo tipo di progetti, ma anche fondazioni e eventi che sono fuori dal territorio campano. Noi siamo invece per un lavoro sulla quotidianità, su tutti i giorni, su esserci sul campo. Gli strumenti che mancano sono quelli informativi, fanno corsi di informazione, gli strumenti che diano la possibilità ai ragazzi di creare un'impresa, che è vero bisogno sul territorio, quello del lavoro che diventa sempre più un lusso in un quartiere dove il 50% degli abitanti ha meno di 25 anni. E da quando hai iniziato a lavorare hai notato cambiamenti, insomma, immagino tu abbia speranze per il futuro. Ma sicuramente quando stiamo lavorando non solo noi, ma una gigantesca rete di associazioni che comprende più di 70 associazioni del territorio, ci sono soprattutto cambiamenti dal punto di vista associativo, del coinvolgimento, quindi dell'aggregazione, di lavorare con i ragazzi. Si vede molto entusiasmo, ci sentiamo parte di una primavera umana, parte di un nuovo processo di cambiamento del territorio, ci crediamo fortemente in tutto questo. Questi sono i grandi risultati che stiamo avendo sul territorio. Che bello, noi ti ringraziamo anche qua da Bologna per il tuo lavoro, per il vostro lavoro. E niente, per concludere, se ci puoi dire una canzone che ti piace per lasciare agli ascoltatori. Sì, una canzone di un gruppo delle nostre terre che si chiama Cosano, la canzone si titola Indorione, nel Rione. Va bene, grazie mille Rosario. Dorio, Dorio, ci trovo in Dorio, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, e dinte frase nostra rivoluzione, chi se suono nuovo sai che è malamore. Ci trovo in Dorio, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, e dinte frase nostra rivoluzione, chi se suono nuovo sai che è malamore. Ci trovo in Dorio, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, e dinte frase nostra rivoluzione, chi se suono nuovo sai che è malamore. Vittorione, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, di me frase non sta rivoluzione. Il suo suono nuovo, sai che è malamore. Sì, farò in macchina, fumando in coppe cuofre, prima fatti come i clopi, e cose rosse a chi ci prova, e troi a chi si trova, Luca produce, ed indestrova, e povera, e non fama che ti fanno muore. Se Dorione, chi sta rindo, ma sta buono, a moglie spenne e se pompa, aglione, capenni, Dorione, dai a vero, t'offro un taglio a due barbiere, poi da roba, tremo mentre a stregno ferro, capo te non l'ombra, frate contro frate, mettete pure la mano in fronte, ma nata le giacco, ma capi chi porta in masciata, sto mondo sopra, non so più meglio di lui. Butto l'acqua perché l'aria è chi ne raggia fra, so frate incatenato, e la vita scorre innanzi a luce mentre fui fra, sto camiscando, caffè, latte, cappuccino, per manarire, ne hai a capa mica non cammina, so cresciuto con chi venne, cagni e marci in mano, sembrava studio fermata, senza bisogno dei pane e mo, c'è lì la rinda in macchina, che rote più grosse, le capa rosse, fanno apposta, si ci guardano, ma insomma guarda. Pisciazzi le napano, casa senta talenzia, roba fallo già cattivo. E schifa tutto quanto e tutta coca casina. Non coppe sposarsi, ci sono spada, tu sa ci rallare. Mi rappresenta vito vero, quello che manca, con perghiera, tuo piacere, sa misura strisce. Ammirazione, perché è ricco senza rischi, a strada come ispirazione, tu vedi giuro. Non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, ed in de frase nostra rivoluzione. Chi se suono nuovo, sai che è malamore. C'è tuo vittorione, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, ed in de frase nostra rivoluzione. Chi se suono nuovo, sai che è malamore. Casa Bina scinde, caro Peppi Duno, e cellulare squilla, ne faccio guarda in schina. Quando costa, costa, e vira sotto all'occhio, roba scava. A strada rata, nata esama, e non ci pare strano. E mano in mano, che figlio nuovo si fa un prima si fa rossi, che so sai che faccio rossi. Io non sto qua, con fuori a mano, aspettando con sangue rapara, guardando i conto casere, tutti i fratelli, prima bene, ne poi morono e si abbruciano. Ma attramente in rima non si sono né ci mannano 1500 guardie e tu non femmina manco un enue perché fa mamma abietto a nulla sacci capace in utopia perché si porta a ragione e sapia perché se tarantella si mangia la faccia mia e non so stanco e ci metto danni e ci metto più amici di rosa e amici di musica tu come risci cresco muscola e vene e carica senza tabacco senza una braccia faccio punnere nel mille si fa domani che sa che tiene chi è di casa per carè chi vuole essere ci fa vedere quanti complessi tiene come l'accendere il gas può volare qua di consonanti a di vocale sta male l'ho porto bottiglia accenda nostra Germani può non meglio pochi bagagli e sordi di buste plastiche buoni o aggiungo quanto non state che cappotto fa ma senza botte è tutto a posto ho già vita cosa davvero è elegante ti tenono un ganno sono ridicolo né dico non me loro comunica non giudica l'amore è l'unico che adora ancora e se perdi in Dorione ci trovo in Dorione non mi sento buono mamma che mi succede i frati mi soffumano ancora ed in de frase nostra rivoluzione tizio suono nuovo sai che è malamore ci trovo in Dorione non mi sento buono mamma che mi succede i frati mi soffumano ancora ed in de frase nostra rivoluzione tizio suono nuovo sai che è malamore ci trovo in Dorione non mi sento buono mamma che mi succede i frati mi soffumano ancora ed in de frase nostra rivoluzione tizio suono nuovo sai che è malamore ci trovo in Dorione non mi sento buono mamma che mi succede i frati mi soffumano ancora ed in de frase nostra rivoluzione tizio suono nuovo sai che è malamore Grazie Sara e grazie Rosario per l'intervista. Adesso passiamo al consueto appuntamento delle vittime di mafia. Francesca, a te la parola. Ciao a tutti. Oggi abbiamo scelto una vittima che è stata uccisa a Scampia il 15 ottobre di quest'anno. Il 15 ottobre del 2012 moriva Pasquale Romano. La scelta in realtà è stata abbastanza difficile. Volevamo parlarvi di una vittima di Scampia, ma Scampia in realtà ha un lunghissimo elenco di vittime, molte delle quali tra l'altro, ed è questa la cosa che più fa rabbrividire, sono vittime innocenti, ma vittime che proprio si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato, come si dice, che non c'entravano niente. Tra queste c'è il cugino di Rosario, Antonio Laudieri, il cui corpo tra l'altro fu scambiato per quello di uno spacciatore e per giorni e giorni i media e tutta la popolazione lo definirono un criminale e quindi anche non solo venne ucciso per sbaglio ma la sua memoria fu anche infangata per questo e sono morti accidentali, morti che non dovrebbero succedere. Pasquale Rosario era un operaio e aveva 30 anni. Aveva una ragazza da 3 anni, avrebbe dovuto sposarla dopo poco. Aveva un lavoro e viveva con i genitori. Ogni sera andava a trovare la ragazza a Marinella. E quella sera, la sera del 15 ottobre, si era appena rimesso in macchina, aveva acceso i fari, quando una scarica di 14 proiettili colpì il suo finestrino e fu trucidato in questo modo. Ma la cosa assurda è che Pasquale Romano non era un camorrista, non era un mafioso, non era neanche un criminale di basso calibro. Era un ragazzo di 30 anni che avrebbe dovuto sposarsi dopo poco. E fu scambiato invece per un criminale, Domenico Gargiulo. Il mandante, che è stato poi successivamente identificato, è Salvatore Baldassarre, di 30 anni. Insieme a lui, e fu anche l'assassino, insieme a lui quella sera c'era Giovanni Marino, di 22 anni, che incitò Salvatore Baldassarre a colpire l'uomo sbagliato, ovvero Pasquale Romano. E lo sbaglio fu fatto perché una donna che fu poi successivamente si costituisce alla giustizia e rivelerà quindi poi i nomi dei criminali che avevano macchinato l'omicidio, doveva mandare dall'interno della casa, dall'interno del palazzo della ragazza di Pasquale, un messaggio per identificare la persona che i due criminali dovevano uccidere. I due non aspettano che arrivi questo SMS e di propria iniziativa uccidono una persona, che però era la persona sbagliata. Bene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, questa puntata su Scampia, in cui abbiamo mostrato non solo un lato di non vita, ma anche un lato di vita, e perciò vi lasciamo con la canzone dei Foia che si chiama appunto Vita. Sai, ma mai si sicuro è che la canzai, e sai che la pienza non serve per niente, tu sai. Stone the car.